Buongiorno a tutti. Due cose veloci prima di iniziare. Questa settimana non si sente? No. Vabbè, mi sentite lo stesso? Sì. Ok. Allora, settimana scorsa ci siamo incontrati con i ragazzi che sono venuti all'incontro e abbiamo un po' strutturato l'ultima lezione e alcuni dei frequentanti hanno scelto gli argomenti su cui da approfondire, ovviamente inerenti a quello che abbiamo trattato, in particolare le stragi, i colpi di Stato. Quindi l'ultima lezione sarà tenuta da noi e da alcuni dei ragazzi del laboratorio. Per la prossima settimana invece non ci sarà una dispensa, perché come sapete ci sarà questo seminario metodologico col professor Giannulli, il professor Saccoman, il professor Valent e il professor Canavero, ed eventualmente appena possibile cercheremo invece di mandarvi un approfondimento via mail specifico per la prossima lezione. Il professor De Lutis, che ringraziamo di essere qui oggi, è venuto per noi da Roma e siamo molto contenti. Il professore è stato consulente della commissione stragi e nello specifico è uno dei maggiori studiosi in Italia per quanto riguarda i servizi segreti. Ha approfondito molto bene questo tema spinoso che si fa fatica a conoscere anche dopo un po' di tempo che lo si studia, se non si hanno a disposizione tutte le carte che sono state prodotte dai servizi. Dopodiché buona lezione. Ci vediamo per le domande. Non va. Ah, ecco, e c'è questo centrale che funziona. Ciao. Allora, buongiorno. Abbiamo un universo davanti, quindi qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quando state per morire che parlo troppo, mi tagliate il filo e mi capisco che è finita giustamente la lezione. Perché poi, quando sono stato contattato, mi era stato chiesto di parlare delle carte dei servizi. Ora, noi parleremo delle carte, però, oddio mio, insomma, penso che l'argomento sia anche parecchio più ampio e quindi sia il caso di partire dal generale e poi arrivare allo specifico. E poi non so quanto vi possa interessare una mini storia dei servizi e poi entriamo nel vivo della struttura e di come operano. Quindi, allora, si dice che lo spionaggio è la seconda più antica professione del mondo. Penso che voi abbiate capito qual è la prima, secondo queste persone. E in effetti si hanno nozioni, informazioni di agenti segreti fin da prima di Roma antica, Ciro di Persia, per esempio, aveva inventato un sistema sicuro per trasmettere i messaggi, un po' lento per la verità, per trasmettere i messaggi a un altro re. Radeva i capelli di uno schiavo, incideva la lettera sulla cute, poi faceva ricrescere una grande chioma, mandava lo schiavo all'amico, il quale già sapeva che doveva radere, e così leggeva il messaggio. Se voleva rispondere, non so se prendeva un altro schiavo con la testa pulita o se scriveva negli interstizi, E poi doveva ricrescere i capelli, quindi siamo nell'ordine di 4 mesi, 2 mesi per... E quindi insomma un po' lenta la cosa. Comunque nell'antichità c'erano varie branche, già c'era la suddivisione, diciamo, la polizia militare, cioè quella che deve controllare l'attività, il controspionaggio, cioè le persone che non fanno spionaggio ma devono evitare che altri servizi si infiltrino tra le file dell'esercito cui appartengono, e lo spionaggio vero e proprio. E naturalmente l'infiltrazione fin da allora era la colonna portante, ovviamente, perché si mandava un soldato che aveva il compito di dire che l'esercito da cui proveniva era fatto di canaglie, di persone truci, che andava ucciso quel re. Insomma, si cercava di conquistare la fiducia dell'avversario, e poi insomma diciamo, la metodica è più o meno la stessa. Anche adesso le spie cercano di infiltrarsi nel mondo avversario, e le controspie cercano di ritrovarli. Dobbiamo fare un salto fino alla Repubblica di Venezia per trovare la prima struttura davvero, diciamo, organizzata come la intendiamo noi. Per di più c'era un tale Soro, che era un crittoanalista di altissimo livello, tanto che poi fu ingaggiato anche dal Papa. Quindi anzitutto fu creata la prima scuola diciamo, per addestrare le spie lì a Venezia, e lui era ovviamente il direttore. Tenete presente che Venezia aveva ovviamente bisogno di un grande numero di agenti, perché aveva punti di corrispondenza commerciale dall'antica Ragusa, oggi Dubrovnik, a Cipro, Aleppo, il Medio Oriente, la Siria, tutto il Mediterraneo. Quindi aveva più di altri la necessità di mantenere dei sensori. Il metodo più semplice è anche quello che ancora adesso usano: aprivano dei negozi commerciali. Il negozio commerciale, per non essere costoso, deve trattare materiale che non deperisce. Negli anni 70, qui a Piazza del Duomo, mi pare, sì, c'era una profumeria che si chiamava Cosmetic. Ora non lo so se ancora esiste, perché nel qual caso sto facendo rivelazione di segreto di Stato e mi arresteranno appena esco. Ma comunque, allora c'era questa profumeria Cosmetic. All'interno, nel retrobottega, c'era una bella saletta attrezzata per chi era addetto. Aveva accesso, tra l'altro, un giornalista del Corriere della Sera che collaborava con i servizi fu accompagnato lì e rimproverato perché era il famoso Giorgio Zicari, che era un uomo di destra, che però aveva avuto poi dei contatti con il giudice Tamburino, rivelando alcune cose, quindi aiutando la giustizia. E questo fatto non andava bene, finché lui, dalle colonne del Corriere, diceva: Valpreda il mostro, Valpreda l'assassino, Valpreda ha fatto tutto da solo, andava bene. Poi però cominciò anche lui a capire che la cosa era un po' complicata, poi cominciò ad esserci il golpe del principe borghese. Insomma, la persona, che poi era abbastanza seria, cominciò a indagare, e allora fu fortemente, pesantemente rimproverato in questo retrobottega della Cosmetic. Veniamo ai servizi moderni, altrimenti ci perdiamo con l'invincibile armada e tutte le altre azioni di spionaggio che ci sono state. L'Inghilterra, dopo Venezia, è la nazione che ha fin dal 600 si è attrezzata con delle strutture di spionaggio. Ma veniamo a noi, il primo servizio segreto militare ufficiale viene costituito dopo l'unità d'Italia 1863-66, 1863. Nel 66 c'è la guerra, terza guerra di indipendenza, e l'Italia perde di brutto a Custoza, perde l'esercito, e a Lissa, che è un'isola diciamo tra Spalato e Pescara, adesso si chiama Vis, l'armata navale fu sbaragliata, tanto che l'ammiraglio molto eroicamente andò a nascondersi nel porto di Ancona mentre le sue navi combattevano e perdevano. Poi fu messo in stato d'accusa dal Parlamento. Insomma, dopodiché però la conclusione per quanto ci riguarda è che tutti accusarono il servizio segreto di questa defaillance e il servizio fu formalmente sciolto. In realtà un ufficio sopravvisse fino al 1897, quando invece poi rinacque in maniera più ampia, sempre siamo sul livello di 4 persone solo a Roma. L'espansione corposa si ebbe ovviamente con la prima guerra mondiale, perché c'era da coprire tutto l'arco del confine orientale e le retrovie. Nonostante tutta questa struttura, voi sapete che poi ci fu Caporetto, però Caporetto il servizio l'aveva previsto, e invece c'è un ammiraglio che poi ha fatto una relazione dicendo: noi l'avevamo detto. E invece lo Stato Maggiore ebbe notizia di questo addensarsi di truppe austro-ungariche dietro Caporetto, quindi in Slovenia, e pensavano che era uno scherzo, così sui documenti, credesi allo scherzo. Sta di fatto che il signore che ha fatto questo libro è stato poi condannato a un anno di reclusione per aver rivelato questa situazione. Invece gli storici concordano perfettamente con lui, che ha giustamente accusato il capo di Stato Maggiore, che poi in realtà fu cambiato, voi sapete, era Cadorna e fu sostituito da Diaz, e tutti i leader militari. Per avvicinarci rapidamente, nel 25 viene creata una struttura più corposa che si chiama SIM, Servizio di Informazioni Militari, che è quella che, diciamo, nel 34, 35, 36, ma solo in quegli anni, si è macchiato di colpe molto gravi, assassinando i fratelli Rosselli, facendo altri delitti, introducendo nel porto di Marsiglia, sapete, era in corso la guerra civile spagnola, e nel porto di Marsiglia c'erano navi che poi aiutavano la Repubblica Spagnola, che stava perdendo e quindi si stava sempre più restringendo intorno a Barcellona. Ebbene, consegnarono delle partite di carbon coke, sapete, le navi allora andavano a carbone esplosivo, per cui vi furono delle navi che colarono a picco con molti morti. Poi, secondo le carte del SIM, un passo ulteriore era quello di distribuire la peste a Barcellona. Però o i bacilli non si sono sviluppati, o i soldati del SIM non hanno diffuso i bacilli, pensando, non a torto, che i primi a essere contaminati sarebbero stati loro. E allora hanno detto: sai che faccio, questa la sotterro e buonanotte. Questo dalla storia noi non lo sappiamo, sta di fatto che era un'operazione prevista ma non risulta attuata. Poi negli archivi magari ci sarà la spiegazione, ma anche una storica che è a loro vicina, non è stata ammessa a questo tipo di segreto, quindi pensate che vi sono carte ancora sia al servizio segreto sia al Ministero degli Interni. Dunque, nel 1861, quando ci fu l'Unità d'Italia, rapidissimamente perché poi abbiamo tante cose, ci fu la conquista di Garibaldi dal sud, sapete, Marsala, poi piano piano risalirono. Poi l'incontro di Teano, quindi Garibaldi consegnò ai piemontesi il regno di Napoli e si ritirò. Ebbene, un po' finanziati dal Vaticano, non tanto dal Borbone, che rinunciò abbastanza presto al regno, andò come si chiama, insomma, a Gaeta, rimase alcuni mesi a Gaeta, poi andò a Roma, ospite del Papa, poi andò a Londra dove aveva splendidi palazzi e visse in esilio. Anzi, era la moglie, che era un'austro-ungarica, che diceva: ma fomentiamo una resistenza. Invece fu il Vaticano a fomentare la resistenza filoborbonica, perché si era reso conto che una volta che il regno di Sardegna l'aveva circondato, se lasciava questa situazione, prima o poi sarebbe stato conquistato anche il Lazio. Quindi il Vaticano finanziò questa resistenza borbonica, quella che nei libri di storia si chiamano il banditismo, i briganti, il brigantaggio. Ebbene, vi sono delle carte che dimostrano che i piemontesi, nel soffocare questa resistenza, fecero delle stragi, e mi ha detto un ufficiale dei servizi che ha letto questi documenti, al cui confronto Marzabotto è una passeggiata di Pasqua. Questa è la frase che mi ha detto, che ha detto personalmente a me, la persona che ha letto questi documenti, che ancora sono segretati. Visto che c'è la legge dei 30 anni, io presto farò una domanda per desegretare questi che hanno 150 anni e vediamo se mi dicono no, è troppo presto anche per questi documenti. A questo punto, ecco, abbandoniamo il passato, c'è questa fase, devo dire, durante il fascismo le azioni criminali furono, criminali insomma, più pregiudicate furono fatte dall'Ovra, non tanto dal SIM, tranne quei due anni, fine 34, 35 e 36, nei quali il SIM fu guidato da Roatta, che poi diventerà capo di Stato maggiore dell'esercito. E quindi è quel periodo in cui si addensano l'assassinio dei fratelli Rosselli, l'introduzione di carbone esplosivo e varie altre attività che poi non conosciamo molto all'interno, diciamo, per favorire i falangisti contro la Repubblica di Spagna. Nel dopoguerra, lo sapete, sono le esigenze internazionali quelle che rendono molto tesa la situazione e trasformano i servizi da organismi di spionaggio e controspionaggio in organismi che si devono anche sporcare le mani. Voi sapete che dopo due anni dalla fine della guerra cominciò quella che viene chiamata la Guerra Fredda, quindi si crea questo confine estremamente delicato al centro dell'Europa e due paesi come l'Italia e la Francia, dove il Partito Comunista era molto forte, furono i paesi dove i servizi furono chiamati a svolgere attività al di là dei loro compiti istituzionali. E la coda di questa attività di guerra a bassa intensità, perché possiamo chiamare più correttamente la guerra fredda una guerra a bassa intensità, nel senso che non fu guerra aperta, ma fu anche una una guerra di spie e anche una guerra di colpi bassi, di operazioni fuori controllo, fuori protocollo, diciamo, nel senso che non è vero che usualmente le spie uccidono come i film ci hanno insegnato. In fondo l'agente di un servizio fa la sua mansione, cerca di fare un rapporto veritiero sulle consistenze militari del paese avversario, oppure fa del controspionaggio, cioè cerca di scoprire le eventuali spie del paese avversario in Italia, quindi soprattutto all'interno delle nostre forze armate, controlla che non ci siano uomini retribuiti dall'avversario. Però poi la situazione che si è creata tra il 47, diciamo, poi si è attenuata a metà anni 60 e poi, come sapete, è finita del tutto nell'89 con la caduta del muro, inevitabilmente ha comportato un irrigidirsi e quindi anche una maggiore durezza. In questo quadro io credo si possa inserire tutto ciò che è avvenuto in Italia dal 69 in poi, nel senso che gli Stati Uniti intuirono l'aumento della sinistra prima del 68. Infatti noi troviamo che nel 66 e 67 all'interno degli Stati Uniti in un primo tempo vengono lanciate delle operazioni di infiltrazione così estese, perché furono in grado, i servizi hanno anche questo compito, quello di prevedere quello che può accadere di lì a 2 anni, a 3 anni. Bene, la CIA e gli altri servizi statunitensi furono in grado fin dal 66-67 di prevedere che ci sarebbe stata quell'esplosione che noi poi chiamiamo il 68. Ebbene, vi furono massicce infiltrazioni di uomini dei servizi nelle università statunitensi. E questa infiltrazione fu addirittura chiamata, così nel gergo, Hoover University, perché fu condotta soprattutto dal capo dell'FBI, dall'FBI che è competente all'interno del territorio statunitense. Hoover è il fondatore, il maggiore, il direttore più importante dell'FBI nei primi 10-15 anni del dopoguerra. E nell'ambito di questa operazione molto ampia e molto articolata, vi fu anche da un lato il pagamento di esperti per dire che cominciamo dall'inizio, vi fu la distribuzione di droga, cioè la valutazione che per stroncare l'impegno politico dei giovani dei campus statunitensi, poi vedremo in Europa perché c'è un secondo passaggio in Europa, all'interno degli Stati Uniti vi fu questa distribuzione di droghe abbastanza pesanti con lo scopo proprio di depotenziare l'impegno politico dei giovani. E nello stesso tempo ci fu una campagna di stampa negli Stati Uniti per indicare nei giovani e nelle eventuali violenze che si potevano sviluppare la conseguenza del fatto che i giovani si drogavano. La immissione di droga in quegli anni nei campus universitari statunitensi fu enorme. Si parla di tonnellate di droghe anche pesanti, e in questa enorme campagna fu coinvolto un personaggio che poi ritroveremo in Italia e che chiese di essere messo nella cella di Curcio. Si chiamava Roland Stark ed era nello stesso tempo un agente CIA, ma a Bruxelles aveva una fabbrica di droghe fra le più grandi del mondo. E quando venne in Italia, da un lato prese contatto con uomini dei servizi segreti militari, Miceli e l'area, diciamo, che in quel momento guidava il SIFAR, che comunque era già divenuto SID. Il servizio rinacque nel 49, perché negli anni, adesso faccio una breve finestra per darvi i nomi dei vari servizi. Dunque, nel 45, il 31 dicembre 45 viene sciolto il SIM fascista, ma gli Stati Uniti, che ancora non si fidano dell'Italia, le forze armate erano prevalentemente di orientamento fascista, né si fidano dell'Italia perché i giovani, già c'era il più forte partito comunista dell'Europa occidentale. Quindi gli americani impediscono una ricostituzione del servizio segreto militare italiano fino alla primavera estate del 49. Poi perché autorizzano la ricostituzione? Perché in quegli stessi mesi viene fondato il Patto Atlantico, con la conseguenza dell'istituzione della NATO. Quindi una interconnessione degli eserciti, la forza integrata, quindi basi militari in Italia settentrionale direttamente controllate dalla NATO. In questo ambito gli Stati Uniti si sentirono tranquilli, anche perché controllarono che venissero messi ai vertici delle forze armate delle persone affidabili dal punto di vista statunitense. Ed è così che aprile nasce il Patto Atlantico, l'Italia aderisce ad agosto, il primo settembre viene costituito il primo servizio segreto della Repubblica. Si chiama SIFAR, Servizio Informazioni Forze Armate, quindi c'è un salto anche quantitativo. Nel periodo tra il 45 e il 49 avevano impedito che il numero, anche sul piano numerico, si andasse oltre le 500-600 persone in tutta Italia, mentre con la costituzione l'accordo del Patto Atlantico e la costituzione del SIFAR, direttamente controllato dagli Stati Uniti, si passa a quella che è la dimensione che ha adesso, lentamente naturalmente, non è che il primo settembre fanno entrare 2000 nuovi agenti, insomma pian piano si va a quel livello sui 2500 uomini. Come sono strutturati i servizi? Poi riprendiamo l'excursus storico. Come vi dicevo, c'è una branca offensiva, che è quella che opera anche all'estero, e poi opera in Italia come spionaggio presso le ambasciate o presso organismi, ambasciate dell'est soprattutto. Poi c'è questa è la branca offensiva. La branca difensiva è quella che cerca di impedire che le nostre basi, i nostri soldati, anche i civili con incarichi particolari, ambasciatori eccetera, possano essere avvicinate da spie avversarie, in quel caso le spie dell'Europa orientale. E poi c'è la sezione analisi, quella dove confluiscono i documenti carpiti al nemico, all'avversario si dovrebbe dire, ma in realtà quella era una fase così dura che praticamente venivano considerati nemici tout court. Invece, ecco, la sezione analisi analizza i documenti eventualmente sequestrati agli stranieri, ma anche l'elaborazione delle sezioni offensiva e difensiva, in modo da dare poi dei documenti e quindi che contengano tutte le informazioni da passare al direttore e eventualmente ai capi militari. O nell'ambito di questa ricostituzione, anche al Ministero degli Interni, anzi, il Ministero degli Interni ricostituisce le proprie strutture non possiamo dire spionaggio, ma diciamo di polizia segreta, di polizia politica, anche prima, e lì proprio il passaggio dall'ovra all'ufficio affari riservati fu quasi integrale, cioè molti dei dirigenti dell'ufficio affari riservati della Repubblica, quindi dopo la Costituzione, dopo il referendum, erano funzionari dell'ovra che si convertirono all'anticomunismo da uomini che difendevano il fascismo dall'antifascismo. La penetrazione, l'uso, l'utilizzo, diciamo, di funzionari dell'ovra in quel periodo, specie il periodo iniziale, fu massiccio, ancor più elevato di quello del servizio segreto militare. O comunque, per quanto noi conosciamo, siccome i capi dell'ufficio affari riservati poi sono stati prima o poi si sono conosciuti, e mentre è più difficile per i servizi segreti, infatti noi abbiamo una parte che non conosciamo bene, che è proprio quella dal 49 al 59-60, perché è il primo periodo, anzitutto di ricostituzione. Torniamo adesso, stiamo tornando al servizio segreto militare. Di ricostituzione in maniera pesante di questo servizio. In più c'è l'adesione alla NATO, in più c'è in quel momento la guerra in Corea, quindi c'è una guerra guerreggiata in Estremo Oriente con lo spostamento di un numero altissimo di truppe statunitensi, ma gli Stati Uniti temevano che questa potesse essere una trappola sovietica per, dopo aver spostato in Corea tutti i corpi d'élite, le portaerei, la parte più qualificata delle armate statunitensi, i russi potessero invadere la Germania e tentare di arrivare a Parigi e Londra. In realtà non è così, non c'era questo piano. Stalin era ben contento della linea creata a Yalta, la famosa cortina di ferro. Si era fatto quell'anello di protezione costituito dai cosiddetti paesi satelliti, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania. Non aveva nessun interesse a riaprire una situazione in Europa che sarebbe stata, lui lo sapeva, catastrofica, perché quel patto, un patto spregiudicato, perché senza che i popoli possano avere deciso, almeno i popoli dell'Europa orientale sono stati comunistizzati anche in quando alcune, le poche elezioni libere che c'erano state in alcuni paesi della fascia, questi Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, non avevano dato la maggioranza assoluta al Partito Comunista. Sta di fatto che Stalin fece abbastanza tranquillamente, provocò dei colpi di Stato in tutti i paesi, perché in realtà Yalta serviva a tutti, ha preservato la pace per 60 anni. E qui, quando arriveremo a Moro, vedremo perché un interesse così chi come me crede che il caso Moro sia una operazione di natura internazionale nella quale i brigatisti rossi si sono in parte in buona fede, in parte consapevolmente adattati, ma sta di fatto che, ne parleremo dopo, ma un paese avanzato con servizi segreti di questo livello, con la CIA presente in Italia, non è pensabile che non riesca a trovare in 55 giorni una persona detenuta all'interno di Roma, ma questo, se facciamo a tempo, ne parliamo più tardi. Ora, ecco, torniamo al 47, 48, eccetera, c'è la fase molto calda, questi servizi segreti sono, diciamo, quelli adatti a quella situazione. La prima, diciamo, deviazione, vengono chiamate deviazioni, poi vedremo che la parola deviazione è imprecisa, non si può pensare che ci siano generali con una carriera alle spalle e una avanti che di propria iniziativa preparino un colpo di Stato o addirittura favoriscano delle stragi. Se generali dei servizi segreti hanno fatto questo, evidentemente c'era un accordo in questo senso. Sta di fatto però che nel 64 De Lorenzo, allora capo del SIFAR, poi comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e successivamente capo di Stato Maggiore dell'Esercito, fece degli approntamenti di natura pregolpistica, lasciando ad esempio che il 2 giugno 64 le forze armate che erano confluite a Roma per la festa del 2 giugno, che sapete c'è una parata militare ai fori imperiali, non tornarono a casa. In realtà in quella estate ci fu una crisi politica abbastanza delicata, il centrosinistra appena nato inciampò su una questione abbastanza poco rilevante, un finanziamento di 149 milioni alla scuola privata. Allora la scuola privata, secondo il dettato costituzionale, non prendeva finanziamenti statali, adesso li prende. E questa prima, diciamo, smagliatura dal principio che le scuole private si devono mantenere da sole provocò una crisi di governo, l'uscita dei socialisti, e in quell'atmosfera i socialisti avevano partecipato a un primo governo Moro con l'ambizione di cambiare in modo sostanziale le leggi e le cose in Italia. Si accorsero ben presto che la preponderanza della Democrazia Cristiana come numero di parlamentari, ma anche la realtà internazionale, siamo ancora nel 64, Cuba, la crisi di Cuba è solo di 2 anni successiva e voi non l'avete vissuta, ma la crisi di Cuba fu effettivamente una settimana nella quale stemmo proprio a un passo dalla guerra nucleare, perché la Russia aveva cominciato a impiantare missili a Cuba e stava portandone altri. Gli Stati Uniti avrebbero potuto benissimo bombardare Cuba, da questo distruggere i missili, insomma il rischio era altissimo. Poi si superò, però ecco, nel 64 era tornata la fase della guerra fredda più dura, e in quella occasione il generale De Lorenzo insieme al capo dello Stato, e su questo vedrete che nei prossimi anni i libri amplieranno la responsabilità del capo dello Stato e ridimensioneranno la responsabilità del generale De Lorenzo, perché presidente Segni era molto condizionabile, era una persona anziana, anzi proprio in occasione di quella crisi ebbe un ictus che lo lasciò per 64 per 8 anni su una sedia a rotelle. Qui c'è un gioco: il generale De Lorenzo terrorizza il presidente della Repubblica dicendo i comunisti sono vicini al potere, ci sarà il caos. Anche alcuni ministri economici terrorizzano, ci sarà il caos economico, e il presidente della Repubblica, che è fragile, anziano, dà il via a De Lorenzo di fare questi approntamenti, cioè lasciare le truppe a Roma nel giugno. C'è la crisi che dicevamo, quindi c'è un'atmosfera pesantissima di cui i normali cittadini si accorsero poco, per la verità. Questa realtà del 64 sarà scoperta alcuni anni dopo per merito dell'Espresso, che ci fu un numero, allora l'Espresso era come un quotidiano, Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di Stato, e tutte le pagine successive riempite di questo fatto, e fu il numero che andò esaurito il primo giorno di uscita in tutta Italia. E da allora furono costituite commissioni parlamentari, commissioni militari, per cercare di conoscere i termini veri di ciò che era avvenuto nel 64. Sta di fatto che ancora adesso per una parte di quei documenti c'è ancora il segreto di Stato. Dobbiamo dire che nel 1990, nel periodo della Gladio, il presidente del Consiglio Andreotti ha fatto un gesto meritevole, perché ha desegretato 5.000 pagine dei documenti del golpe di De Lorenzo, che è già tanto, perché la legge dice 50 anni dal momento della redazione dei documenti, quindi non dal 64 ma dal 69, quando le commissioni si conclusero, e 70 anni se vi fossero coinvolgimenti personali. È ovvio che lì ci sono tutti i coinvolgimenti dei generali, quindi 70 anni. Lui l'ha desegretata 20 anni dopo, quindi diciamo che ha fatto un'opera meritevole. Sta di fatto però che esiste ancora un'altra stanza completa di documenti su questa realtà. Poi, ecco, dopo questa fase in cui, mentre gli italiani seguivano con ansia questi eventi che erano avvenuti 5 anni prima, ma era un pericolo piuttosto forte che si era corso, ecco che scoppia la bomba di Piazza Fontana. La bomba di Piazza Fontana probabilmente è un'attività preventiva, o non tanto preventiva, viene dopo il 68 e dopo l'autunno caldo del 69. Quindi in quel periodo, 68-69, si fondono le rivendicazioni studentesche e le rivendicazioni operaie. E le rivendicazioni operaie cambiano di obiettivo. Fino al 67, per tutto il periodo dalla fine della guerra e per tutto il passato, diciamo, la rivendicazione era economica, l'aumento di stipendio. Qui vengono introdotte delle richieste che, da un certo punto di vista, potrebbero essere meno dirompenti, perché il padrone non deve aumentare le paghe, però è ovvio che la Confindustria vede in queste richieste un pericolo. Che cosa si chiede? Si chiede il diritto di assemblea all'interno della fabbrica, si chiede la tutela sindacale, cioè ci deve essere un rappresentante per ciascun sindacato, deve finire la storia che i sindacali, che chi è iscritto ai sindacati di opposizione viene emarginato, c'è un passato alla Fiat di reparti, venivano proprio chiamati reparti confino, dove tra l'altro lavoravano da soli, e vi furono dei suicidi tra gli operai trasportati, spediti in questi reparti confino. Quindi senza una violenza fisica, ma con una violenza psichica, psicologica, morale altissima. Ecco, questa questione dello statuto dei lavoratori, che fu varato proprio in quell'anno per merito di un ministro, Brodolini, che purtroppo morì di tumore e non vide l'attuazione della sua legge, irrigidì le forze confindustriali. Quindi Piazza Fontana segue questa situazione. Gli operai che si rendono consapevoli che è molto meglio avere una tutela sindacale in fabbrica, avere il diritto di assemblea, avere questa forma di autonomia, piuttosto che, diciamo, 10.000 lire di allora in più sullo stipendio. E questo impensierisce molto la Confindustria e le altre le grandi imprese, diciamo, che capiscono che questo può portare a una consapevolezza molto alla lunga, e quindi a una richiesta di all'abolizione di tutti quei controlli che venivano fatti sull'inclinazione politica degli operai all'interno della fabbrica. Ecco, Piazza Fontana probabilmente, o quasi sicuramente, almeno questa è la mia personale opinione, ma ormai la magistratura si è avvicinata a questo, un'operazione estremamente complessa. Voi sapete, all'inizio fu presentato il mostro Valpreda come agnello sacrificale, poi si scoprì che erano coinvolti ragazzi di estrema destra, poi si scoprì che i servizi segreti erano coinvolti in quelle che furono chiamate le attività di depistaggio, cioè mentre i magistrati, molto con grande serietà e determinazione, ricordiamo D'Ambrosio che adesso è senatore, Alessandrini che purtroppo è stato assassinato da un gruppo di estrema sinistra, ma questi magistrati intuirono subito qual era il nocciolo del problema e quindi si indirizzarono sull'estremismo fascista, ma anche sui quei servizi che a loro avevano dato indicazioni sbagliate nell'intento di portarli su strade sbagliate. Queste furono chiamate i famosi depistaggi. Ma forse la verità è ancora più, e se ne comincia, Salvini si è avvicinato. Cioè i servizi come depistatori, ma non come mandanti della strage. Le stragi potrebbero essere, diciamo, state concepite a livello internazionale seguendo questo ragionamento logico o psicologico. Se noi seminiamo il terrore, si crea ovviamente il panico se tra la popolazione civile, perché la bomba non è messa in un determinato posto un altro avversario politico, è messa nei luoghi dove tutti potremmo trovarci: una piazza, una stazione ferroviaria, un vagone ferroviario. Quindi non la bomba all'avversario politico, quindi la persona, diciamo, che non si interessa di politica, dice vabbè che si ammazzino tra loro, io non c'entro. No, con le bombe distribuite in questo modo tutti si sentono indifesi. diciamo che gli ideatori della strategia della tensione facevano questo ragionamento: se io mi sento indifeso, sono nel panico, non voto per il rinnovamento, non voto per partiti che chiedono un cambio politico, perché si aggiungerebbe disordine a disordine, quantomeno si aggiungerebbe una fase di instabilità. Voto per i partiti dell'ordine che saranno di destra, ma almeno impediranno, arginiranno questo terrorismo stragista. Ma il ragionamento che viene da menti anglosassoni, molto, molto così, ragionamento sì, apparentemente del tutto ragionevole, ma che poi nella pratica di un paese europeo non funziona. Nel periodo dal 69 al 75 invece ci fu un grosso aumento dei risultati elettorali della sinistra, e soprattutto vi fu una maggiore partecipazione di popolo, sempre crescente, soprattutto in occasione dei funerali delle varie stragi, con una popolazione affatto intimidita, anzi, dopo il silenzio di Piazza Fontana, che già fece paura, perché quando il ministro Rumor venne per i funerali a Piazza del Duomo e trovò 100.000 operai in tuta, totalmente silenziosi, quel silenzio lo terrorizzò, tanto che lui, che era stato incaricato di proclamare lo stato di emergenza, se non lo stato di assedio, perché il disegno era: la bomba provocherà disordini che ci darà la possibilità di proclamare lo stato di assedio. Ecco, Rumor tornò a Roma molto impressionato da quel silenzio e quell'attenzione ferma di 100.000 operai che erano venuti in tuta da lavoro. Tornò a Roma e non proclamò lo stato di emergenza, tanto che i fascisti, la destra, poi comparvero in Italia delle scritte: tutte le bombe fanno rumore. E in realtà poi, abbiamo saputo molti anni dopo, vi furono dei tentativi di assassinare Rumor da parte della destra. Una delle persone che furono, a cui fu richiesto di assassinare Rumor, è un detenuto fascista che però merita, diciamo, la considerazione di noi italiani, perché lui si è costituito, è Vincenzo Vinciguerra, che è qui al carcere di Opera. Lui ha partecipato alla quello che lui chiama l'attentato di Peteano. Lui non vuole che si chiami strage, perché lui ha fatto collocare un'auto piena di esplosivo, non sulla strada pubblica, ma all'interno di un campo. Poi ha telefonato ai carabinieri e ha detto: c'è un'automobile con dei Gesè, un buso nella macchina con dei colpi di pistola, andate a vedere. La macchina era trappolata, quando aprirono morirono i tre carabinieri che erano più vicini. Lui preparò questo attentato, e ci tiene che sia chiamato attentato e non strage, perché disse: per Piazza Fontana i carabinieri ci hanno spinto, poi ci hanno abbandonato. E quindi da qui lui fugge all'estero, agevolato in un primo tempo anche dai fondi dei servizi segreti. I servizi segreti hanno inviato all'estero molti dei neofascisti in quel periodo con i fondi di noi contribuenti, perché i fondi dei servizi sono fondi nostri. E lui, dopo alcuni anni, nell'84, quindi è stato parecchi anni fuori, però si è presentato al confine, si è costituito ed è ancora detenuto Basterebbe che lui scrivesse su un foglio le parole "Mi pento di quello che ho fatto", la legge ormai è abbastanza permissiva per gli ergastolani, si ridurrebbe a 30 anni di fatto. Da 30 questa mini collaborazione gli varrebbe una ulteriore diminuzione di pena e lui uscirebbe primi mesi in libertà condizionata, poi con rientro notturno, poi sarebbe libero. Perché non lo fa? Perché lui dice che vuole testimoniare, perché lui non ha cambiato idea. Dice: io sono un fascista al quale è stato chiesto per il bene della patria di fare una strage, non è poi coinvolto direttamente in Piazza Fontana, però era una delle persone che dovevano convergere il 15 dicembre secondo il piano, per cui c'era poi una specie di adunata di destra a Roma per forzare lo stato di emergenza, un governo di emergenza e tutto il resto. E lui dice: io ho mantenuto i patti, non voglio, non mi pento di quella strage perché non ho fatto una strage, ma ho fatto un attentato all'arma dei carabinieri. Certo, la parte debole di questo ragionamento è che lui ha ucciso tre carabinieri di Gorizia che non c'entravano niente con le decisioni del comando generale dell'arma. Comunque, questo è il suo. Però Vinci Guerra ha scritto sette libri, di cui purtroppo due soli sono stati pubblicati, che sono molto molto interessanti, perché dall'interno lui è l'unico che poi dall'interno del mondo di destra descrive questo influsso, questa tendenza di uomini dello Stato nel convincere gli estremisti di destra della necessità di attuare delle stragi per poter pacificare il paese, per poter facilitare un governo di emergenza, un governo di militari o anche un governo civile, ma con delle leggi più restrittive. L'innesco doveva essere appunto una strage e fu Piazza Fontana. Poi le cose sono andate avanti un po' per un altro verso. Non c'è stata la proclamazione dello stato di emergenza. Come dicevo prima, le masse operaie di sinistra, invece di disorientarsi, si unirono, tanto che poi a ogni funerale i fischi aumentarono sempre, ad ogni di questi funerali. Peteano, poi Brescia, no, poi l'attentato alla questura di Milano, poi Brescia e poi l'Italicus. Si arrivò al punto che a Brescia c'era il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, 7-8 ministri, per 20 minuti consecutivi la piazza fischiò ininterrottamente in modo che non poterono parlare. Ecco che a questo punto finalmente gli strateghi internazionali capiscono di avere sbagliato. C'è un'ulteriore strage che è quella dell'Italicus, forse di diversa matrice o forse completamento di un ciclo, che c'era ancora chi era convinto che quella era la strada per rendere più malleabile il popolo italiano per poter proclamare un governo di centrodestra più più duro. Sta di fatto che con l'Italicus si chiude tutto, non ci sono altre stragi fino a Bologna nell'80, ma Bologna poi ne parleremo un'altra volta o anche adesso, ma insomma è fuori della strategia della tensione propriamente detta. Oh, adesso però dobbiamo tornare un po' ai servizi, se no parliamo delle stragi più che dei servizi. Allora, dopo la crisi di De Lorenzo, il servizio cambiò nome e si chiamò da SIFAR, si chiamò SID, Servizio Informazioni Difesa. E il SID, che doveva essere emendato dalle colpe vere o presunte del tentativo eversivo del 64, in realtà commise reati ancora più gravi, perché seguì tutte le stragi che avvennero in quegli anni e impedì di fatto alla magistratura di arrivare a concludere nemmeno uno dei tanti processi per strage. Voi sapete che qui a Milano si è svolto recentemente l'ultimo processo per Piazza Fontana, 39 anni dopo. L'iter di Piazza Fontana, i più anziani lo ricordano, i meno giovani, si stava andando avanti qui a Milano, ci fu un trasferimento a Roma, poi si ritornò a Milano. Poi però, visto che Milano insisteva e stava andando dritto verso i responsabili anche dei servizi, ci fu un trasferimento a Catanzaro, sede disagiatissima per i testimoni, per le vittime, i parenti delle vittime, e si riteneva sede affidabile perché c'era un procuratore capo di destra. Questa persona però non accettò e quindi fece condannare all'ergastolo Freda Ventura e addirittura anche Giannettini. A quel punto da Catanzaro lo dovettero spostare a Bari e qui finalmente ci furono le assoluzioni, per cui adesso Freda e Ventura non sono più processabili. Gli studenti di giurisprudenza sanno che non si può essere processati per lo stesso reato, tranne i gradi, sì, appello, Cassazione, ma non si può tornare a... E quindi, anche se si svolgesse un processo, come si è svolto un processo per nuovi imputati, Freda e Ventura sono liberi di fatto per tutta la vita. E in particolare Ventura ha aperto un ristorante a Buenos Aires frequentata dalla gente bene di Buenos Aires e anche dai nostri ambasciatori. Personalmente credo che forse gli ambasciatori sarebbe stato meglio se si astenessero dall'andare nel ristorante di Ventura. Comunque. Allora, torniamo ai servizi. Siamo in questo stesso periodo nel quale il servizio deve nel senso non perché sia lecito, ma deve perché a sua volta evidentemente ha degli ordini precisi. Depistare i magistrati, quella è la loro principale attività. Perché nel 72, 73, 74 stanno andando avanti tutte le indagini e anche negli anni successivi, quando dopo il 75 proseguiranno i processi. Voi sapete che addirittura adesso in questo momento è in corso a Brescia un ulteriore processo per la strage del 74. Ebbene, questa fase si chiude nel 77 perché si fa un'altra riforma dei servizi segreti. Questa volta però è una vera riforma, mentre quella tra SIFAR e SID era stato solo il cambio della targa sulla porta, perché gli uomini erano rimasti gli stessi, la struttura era rimasta identica. Qui c'è per la prima volta una riforma parlamentare, cioè il Parlamento per più di un anno studia una riforma dei servizi segreti e la vara nell'ottobre 77. Ma che accade? Noi non lo sappiamo, ma hanno preso un'altra precauzione. Hanno preso la precauzione di creare un luogo occulto per le decisioni politiche più importanti. Il luogo occulto è la P2, che sarà scoperta nell'81, ma era nata proprio intorno al 75, quando le stragi improvvisamente finirono. Oh, attenzione che il 75 è una data di cambio di strategia a livello mondiale. Gli Stati Uniti abbandonano tutti i movimenti di estrema destra, Spagna, Portogallo, Grecia. La Grecia l'avevano messi loro i fascisti nel 67, li abbandonano nel 74 e questi cadono nel giro di pochi mesi. Portogallo altrettanto, la rivoluzione dei garofani, cioè i giovani capitani che si ritirano dalle colonie perché ritengono giusto dare l'autonomia, e quindi si crea questo governo di sinistra in Portogallo. In Spagna c'è la lenta agonia di Franco, che essendo vecchissimo, vabbè, non si fa un colpo di Stato, si aspetta la morte. E poi, come vedete, c'è stato un governo molto diverso in questi anni. Anche in Italia i fascisti vengono abbandonati, o quantomeno vengono protetti meno di quanto erano stati protetti fino a questo punto. E soprattutto il cambio di strategia è che non ci sono più stragi, e se ci sono violenze di destra, sono singoli giovani di estrema destra che operano autonomamente. Su questi non ci sarà la protezione totale che c'era sugli stragisti, perché questi operano per conto loro. Tanto è vero che il figlio di Ali Brandi viene ucciso in uno scontro a fuoco, alcuni vengono arrestati, e il figlio del pugile Loi, per avere gettato una bomba, nemmeno una bomba a mano, una SRMC, che è una bomba modesta, però era andata sul petto di un agente, quindi lo aveva ucciso, viene condannato a 24 anni, eppure era uno del gruppo dei fascisti protetti. E Duilio Loi poi dirà: ah, quando vidi che mio figlio frequentava un generale, dissi, beh, sono contento, gli darà quella educazione che io, che non sono colto, lui era un grande pugile, ma insomma aveva una modesta cultura, quindi un generale, sono contento che lui gli dia quella, gli potrà dare quella educazione, quella ulteriore cultura che io non sono in grado di dare. E poi si è fatto, mi pare, comunque un 17-18 anni di reclusione. Quindi siamo lontanissimi dalla possibilità di fuggire all'estero con l'aereo dello Stato, come fu per Giannettini, con i soldi dei servizi. È cambiata, anche perché appunto sono operazioni fatte autonomamente. Poi c'è il caso Moro, che è un caso sul quale ci sono opinioni divergenti. C'è chi dice che sono state le Brigate Rosse, solo le Brigate Rosse, senza persone che abbiano influenzato la loro scelta, che abbiano coperto i loro covi, che li abbiano tutelati. C'è chi pensa, e io sono tra quelli, che il settimo paese più industrializzato nel mondo, per di più aiutato eventualmente dalla CIA, non può non scovare un uomo politico dentro Roma. Bastavano 10-12 marescialli che seguivano, pedinavano Piperno, Pace, questi, diciamo, che frequentavano da un lato Craxi e da un lato Morucci e Faranda. 10 bei marescialli che sanno il loro mestiere, tanto più che questi andavano a cena a Trastevere con Morucci e Faranda, come dire, non so qual è la zona più piena di gente la sera qui a Milano, ma insomma... Navigli. E Navigli, ecco, allora è, insomma, è piuttosto strano che due brigatisti rossi che partecipano al sequestro di Moro escono dalla clandestinità, si fanno una pizza con Pace e Piperno, che avevano incontrato Craxi lo stesso giorno. Quindi, insomma, poi 8 marescialli, 4 seguivano Morucci, 4 la Faranda, e dopo, il giorno dopo non li arrestavano, perché il giorno dopo poi Morucci e Faranda andavano nel covo dove era Moro ed era fatta in 3 giorni. Quindi, insomma, il caso Moro è lontanissimo dall'essere chiarito. Ma fermo. Prego. Ah. E adesso ci stiamo riallontanando dai servizi, poi. Sì? No, in realtà non vorrei fare, però volevo fare una domanda sui servizi in generale. Sì. Nel senso che, soprattutto su Piazza Fontana, ma poi anche successivamente, proprio generale di organizzazione. Lei ha parlato del SIM, del SID, dei servizi militari, giusto? Di quelli che fanno riferimento. Ah, giusto, militari. Dobbiamo parlare dell'ufficio affari riservati. Esatto, se poteva fare una sì. Certo. Su questo. E poi la mia domanda era: qual è la reale autonomia dei servizi, sia militari che dell'ufficio affari riservati, dal potere politico? E qual è la relazione tra di loro? Cioè, se è una relazione di scontro o se di collaborazione? Sì. Allora, l'ufficio affari riservati abbiamo visto che fu ricostituito prima ancora del 49, rimane un ufficio con molte persone di destra, anche provenienti dall'Ovra e comunque dalla vecchia polizia prima della guerra, per molti anni. Il nome ufficio affari riservati, addirittura mentre il servizio segreto militare era abbastanza conosciuto sia pure per grandi linee già negli anni 60 con il caso De Lorenzo, la esistenza stessa dell'ufficio affari riservati si scoprì dopo Piazza Fontana. E infatti dopo Piazza Fontana loro tolgono il nome Ufficio Affari Riservati e lo chiamano SIGSI, Servizio Informazioni Generali e Sicurezza Interna, che nessuno di noi conosceva, ma anche SIGSI dura pochi anni. La responsabilità pare sia superiore a quella dei servizi segreti militari. Perché mentre i servizi segreti militari, a detta di chi ha seguito questi, ma anche lo penso anch'io, hanno svolto solo attività di copertura a posteriori, quando la ciambella non è uscita col buco, Valpreda era improponibile come mostro. 4 bombe, 2 a Milano, 2 a Roma, un'organizzazione. Giudici coraggiosi e bravi arrivano direttamente alle protezioni di cui alcuni fascisti arrivano subito a Freda e Ventura, per esempio, e da Freda e Ventura si risale a Rauti poi viene un po' messo da parte, è una personalità più alta, probabilmente ha responsabilità di collegamento internazionale, ma sul reato fisicamente, certo non era lui che portava le bombe. Si coinvolge, si scopre anche l'esistenza di Giannettini, che è l'uomo di collegamento con i servizi segreti militari. Si tarda un po' a scoprire l'ufficio affari riservati, o meglio, D'Ambrosio e Alessandrini stavano colpendo i servizi segreti militari, anche perché l'ufficio affari riservati, per stornare da sé le colpe, stava rivelando quelle del servizio militare. Sì, del servizio militare. Loro alla fine del 74 stavano proprio per chiudere la parte di indagine sui militari e stavano prendendo contatto con le persone che già avevano avuto delle accuse gravi con questi generali, capi dei servizi, e stavano tentando di fare lo stesso gioco, di chiedere a loro: ma quelli del Ministero degli Interni sono del tutto innocenti? E sicuramente a quel punto i militari avrebbero dato le prove sulla corresponsabilità dell'ufficio affari riservati, che è più alta di quella del servizio militare. A quel punto lo Stato trasferì tutto a Catanzaro, e visto che c'era, e visto che in quel momento c'era un'altra indagine fastidiosa a Padova con Tamburino, che aveva scoperto la rosa dei venti, cioè era andato direttamente alle strutture NATO. Da un momento all'altro, da Padova, lì si andava direttamente a Bruxelles. Poi se c'è tempo ne parliamo. E contemporaneamente Violante, allora giudice, era arrivato a indagare su Edgardo Sogno, che preparava una forma di golpe meno cruenta, con meno morti o con nessun morto, ma ugualmente incisiva. Tutto questo nel 74 sarebbe dovuto scattare. A quel punto però, ecco, tutti rimangono senza istruttorie. Quelli di Catanzaro, come vi ho detto, hanno fatto un lavoro magnifico, e magnifico in particolare l'ha fatto il procuratore capo, che pure era una persona simpatizzante per il movimento sociale ed era stato scelto apposta per questo. Però lui correttamente ha continuato nell'istruttoria, tanto che il rinvio a giudizio e la condanna di Giannettini, che è quella meno facile perché Giannettini come uomo di collegamento tra SID e neonazi e neofascisti non ha portato fisicamente nessuna bomba, infatti poi è stato prosciolto, adesso è morto. Quindi allora, però ecco, Milano rimane senza istruttoria, Padova rimane senza istruttoria, Torino senza istruttoria. A questo punto sull'ufficio affari riservati sappiamo, ma non sappiamo tutto quello che avremmo potuto sapere se Alessandrini e D'Ambrosio avessero potuto continuare l'istruttoria a Milano, fidando appunto nelle vendette degli uomini del sì. E poi è proseguita questo itinerario giudiziario con tanti processi di cui abbiamo parlato. L'ufficio affari riservati fu, diciamo, in parte ripulito, epurato dopo il 74, perché in quel momento il ministro degli interni Taviani, che è democristiano, non di sinistra, però comunque è un uomo che ha fatto la resistenza, evidentemente lui seppe immediatamente, perché avvenne due giorni dopo la strage di Brescia, seppe immediatamente delle responsabilità di forze civili, di polizia, prima fra tutte il vicequestore che fa lavare la piazza accuratamente in modo da far sparire ogni reperto, il dischetto, l'intera bomba finisce nelle fogne e non sarà mai trovata, qui la bomba, i frammenti di bomba ovviamente. Ma oltre al vicequestore c'erano altre responsabilità proprio nel settore civile. Niente, Brescia poi nasce a Brescia, ovviamente, e fatica a andare avanti. Ci sono tre o quattro processi, adesso c'è il quinto, e le difficoltà sono procurate artificialmente nei primi anni, adesso sono di fatto. Chi è morto, chi non è in grado di testimoniare per l'anzianità. Sì, si può riaprire un'istruttoria, ma non è facile dopo 15, 20, addirittura 40 anni. Però mi avevi chiesto un'altra cosa. Oltre. Sì, no, in realtà già emersa c'è lo scontro tra i due servizi. Cioè il fatto che non si amavano e che non collaboravano. E poi invece l'altra domanda era qual è il grado di autonomia dei servizi e delle gerarchie dei servizi dal potere politico? Cioè qual è la relazione che c'è tra questi due poteri che non credo siano propriamente coincidenti, che non siano uno discendente dall'altro. Dunque, questo è variato molto da periodo a periodo, perché dipende anche dalla persona che dirige il servizio e da chi è, diciamo, il politico di turno. Sta di fatto che, come vi dicevo, intorno al 63, 64, 65 si stabilisce questo rapporto strettissimo di De Lorenzo col Presidente della Repubblica, che scavalca il Presidente del Consiglio. Allora, peraltro, la legge faceva dipendere i servizi militari dal Ministro della Difesa, i servizi civili dal ministro degli interni, quindi il rapporto col presidente del consiglio non esisteva. Adesso invece, dopo una fase intermedia in cui da un lato c'era la dipendenza, diciamo, di indirizzo dal presidente del consiglio e invece gerarchica da interni e difesa, adesso dalla riforma di adesso è solo presidente del consiglio, quindi i due ministri di difesa non entrano proprio nel la dipendenza se la crea, o la indipendenza se la crea il generale che di volta in volta diventa capo, perché può avere tutto l'interesse a ossequiare il politico, magari poi fa come gli pare, però intanto si mostra disponibile, gentile, e quindi precostituisce anzitutto la sua carriera dopo che avrà finito quello che è il triennio, perché poi ormai casi come De Lorenzo, che rimane 7 anni e mezzo, non ce ne sono più. 7 anni e mezzo per un capo di un servizio è troppo, acquisisce troppo potere. Può stare anche 15 anni al servizio, ma cominciando dal basso, ma alla guida di un servizio per tanti anni crea anche gruppi di potere, quelli che sono vicini al capo e che emarginano chi non è vicino al capo. Quindi adesso questi avvicendamenti avvengono mediamente ogni 3 anni, massimo 5, si è posto questo limite. Diciamo che in Italia non c'è una tradizione specifica, mentre in alcuni paesi, per esempio il servizio segreto estero della Gran Bretagna dipende dal ministro degli esteri, quindi non della difesa né dell'interno ovviamente, ma lì il rapporto è strettissimo, cioè sono proprio dei servizi che fanno quello che la politica chiede. Quindi la politica può, nella fase di espansione coloniale, aiutava l'espansione, l'allargamento delle colonie, nella fase di decolonizzazione, se il ministro diceva stronca l'insurrezione, stroncava l'insurrezione, se il ministro diceva no, prepara la nuova generazione che dovrà prendere il potere fra 2 anni quando noi lasceremo la colonia, Quindi lì c'è un rapporto molto stretto, però istituzionale. E negli Stati Uniti, lo sapete, è il Presidente degli Stati Uniti che già è contemporaneamente Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, che riunisce tutti i servizi. Piuttosto negli Stati Uniti c'è stato un ridimensionamento della CIA a vantaggio dei militari negli anni di Bush e a vantaggio di un super personaggio che è stato Negroponte per alcuni anni, che quindi si colloca al di sopra della CIA, ma essendo una persona, diciamo, per essere più chiari, negli Stati Uniti, nonostante la fama cattiva di cui gode la CIA è un servizio molto meno disposto a fare scorrettezze gravi. È la DIA, che non ha niente a che fare con la nostra DIA, che è l'antimafia, che è il servizio segreto militare, che ha sempre fatto e fatto fare i colpi di Stato, ha organizzato assassini politici all'estero. È la DIA, quindi, il nocciolo duro della situazione. Lì poi i servizi sono tanti. Poi quello più potente, diciamo, è l'NSA o NSI, che è quello sulle telecomunicazioni, che era già potente nell'immediato dopoguerra, adesso con Echelon, con i satelliti. Tra l'altro l'NSA è il servizio guida di una gerarchia che vede Stati Uniti in testa, poi una fascia dei paesi anglosassoni che vengono chiamati secondi firmatari, e cioè nel 1947 fu istituita questo pool dei servizi dediti a capire le informazioni. Allora erano servizi che facevano intercettazioni telefoniche, soprattutto telegrafiche. Allora il telegramma era un modo di comunicare molto usato, ovviamente, e quindi anche microspie, eccetera. E con la costituzione delle reti satellitari sono diventati ancora più potenti. Allora, vi dicevo, gli Stati Uniti sono i cosiddetti primi firmatari, quelli che dicono ai paesi anglosassoni, quindi Canada, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda, paesi dove importanti, dove si parla inglese. Questi sono i secondi firmatari, ricevono dagli Stati Uniti una parte discreta di informazioni, ma sempre non tutto, e devono dare tutto agli Stati Uniti. Poi ci siamo noi, i terzi firmatari, che sono quelli che devono dare tutto e dagli Stati Uniti non ricevono niente, tranne il caso in cui è utile per lo scopo per il quale gli Stati Uniti ci dicono vi diamo questa informazione. In altri casi si arriva allo scontro, come fu per l'Achille Lauro. Lì veramente Craxi fu bravo, l'unica cosa positiva che ha fatto, e lì voi, e questo non ve lo dovrei dire in pubblico, ma insomma gli americani erano imbestialiti con Craxi perché controllavano il suo telefono, anche quello riservatissimo da Presidente del Consiglio, e Craxi quando parlava con i ministri, con Lagorio, con Signorile, diceva: ah, io ho detto agli americani che quello Abu Abbas è solo l'intermediario, ma noi lo facciamo scappare, così ci garantiamo l'amicizia dei paesi. E gli americani che sentivano, e poi Craxi gli dice: no, guardate, i miei servizi mi dicono che è solo un intermediario, mi dispiace, voi non siete informati correttamente, quindi io lo libero. Perciò ci fu quel gelo terribile, perché poi lo sapete, gli americani, gli anglosassoni in genere, non è tanto il reato che tu compi, ma è o lo spergiuro, cioè i presidenti degli Stati Uniti più facilmente vengono cacciati per aver giurato il falso. Nixon non fu cacciato per aver messo le microspie nel palazzo Watergate, ma per avere detto al Congresso, giurando, che le microspie non c'erano. Perché le microspie, se lui l'avesse detto fin dall'inizio, non si sarebbero così arrabbiati e sarebbe rimasto Presidente del Consiglio. Questa è un po' la logica un po' protestante, cioè se tu giuri il giuramento davanti a Dio sulla Bibbia, eccetera, è una cosa seria. Noi giuriamo, figurati. Ma... Sì, sulla testa dei figli. Certo. E certo, c'è la confessione, quella è l'angolo. Eh no, questo è Lutero, però... questa sì, è vero, la religione è alla base di questa differenza, perché abolendo la confessione e quindi la ti assolvo, dici 10 Ave Maria, 5, l'uomo è responsabilizzato direttamente con Dio. E il momento di responsabilità massima è quando mette la mano sulla Bibbia e giura. Dopo, se giura il falso, lo condannano a pene più gravi che quella che avrebbe prodotto. Tu stavi dicendo qualcosa? Allora, siamo un po' in chiusura. C'è qualche domanda? Sì. Una, due, tre. Allora, proviamo a raccogliere queste tre domande. Però molto rapide, possibilmente centrate sull'argomento dei servizi, cerchiamo di non divagare perché se no andiamo via alle due da qui. Partiamo dalla c'è il rischio oggi. Partiamo. No, io volevo capire appunto cos'era lo stato degli anni, perché cos'era lo stato degli anni 60? Perché in effetti questa versione della super regia americana, che è una versione che io anche posso accettare, no? Mi fa capire che dalla fine della guerra mondiale non è che poi gli americani si fidassero più per tanto né della democrazia, e forse non era neanche tanto la paura del comunismo quanto la sfiducia nel sistema politico italiano a non poter contenere. Volevo capire se lei condivide ancora questa ipotesi, perché mi viene da dire che nonostante fossero poi passati 25 anni, non è che ci si fidasse poi ancora tanto degli italiani da questo punto di vista. Le altre? In fondo? No, la mia era la curiosità su Bologna, cioè quella accennato prima, per coinvolgere anche il senso che Però eviterei di rispondere perché cioè, siamo un po' fuori dal nostro bacino. Io lo farei, ma... E magari vediamo anche l'altra domanda. Adesso non ho sentito. Magari alla fine. Vediamo prima l'altra domanda. No, la indentazione di informazione di dossier, di vasti apparati di schedatura, le schedature create da SIPAR, per cui viene decisa la distruzione, però poi viene scoperto nella parte, diciamo, dell'archivio Gelli, una parte di questi dossier che in realtà avevano dovuto essere distrutti, però questa scoperta che l'ha fatta nell'81, no? Nell'81 le liste di Gelli. Per quanto riguarda le schedature è un po' più articolato, rispondo quando... Però poi questa scoperta fatta successivamente, i fascicoli di cui è stata decisa la distruzione, che invece non erano distrutti, poi vengono a loro volta distrutti. No, aspetta, no, la questione è questa. Per Gelli furono fatte le fotocopie dal capo dei servizi alla Vena, che entrò nella P2 portando questa dote, un camion di fascicoli, ma erano fotocopie, cioè l'originale era ancora lì, perché avvenne prima del 70, Poi nel 74 fu fatta una parziale distruzione, però poi spiego meglio, facciamo se c'è una terza domanda, non lo so se c'è il tempo. Sì? Se io volessi sostenere una tesi su un argomento di questo genere, su quali documentazioni potrei basarmi in concreto, al di là delle attività, della documentazione della commissione Strage, piuttosto che l'attività, diciamo, dei singoli tribunali? Voglio dire, se io so che in Inghilterra vado al Public Record Office, c'è un fascicolo del Foreign Office, cioè un fascicolo, una sezione del Foreign Office, e vado a vedere tutti i fascicoli che attengono alle attività volte, diciamo, anticomuniste o comunque di contrasto al comunismo, dal 45 mi sembra, fino al 46 fino al quando sono resi disponibili queste informazioni. In Italia non è nessun foglio. Nulla. Nulla. Allora è tutto giocato sull'interpretazione di quello che adesso. Allora, come terza ne parliamo adesso, però ci fermiamo qui, facciamo queste tre. Sì, poi dietro. Allora, lo Stato negli anni 60. Certo, gli Stati Uniti non sono stati i tutori per tutti questi 60 anni dell'anticomunismo italiano. Però loro hanno individuato questi due momenti di pericolo, a parte che il 64 vede una parte dei rappresentanti statunitensi a Roma schierati con De Lorenzo e una parte, tra cui la CIA, che dipendeva da Kennedy, che era stata nominata da Kennedy, che invece operò contro De Lorenzo. Quindi qui a Roma vi furono degli avvicendamenti all'interno, il capocentro CIA, questo è il capocentro o capostazione. No, c'è una l'addetto militare statunitense a Roma. Vi furono degli avvicendamenti in direzione di una maggiore disponibilità a una forma di accordo con i socialisti che viene dal periodo kennediano. Poi Kennedy viene ucciso, ma alcuni degli uomini sono ancora qui. A questa tendenza si contrappongono altri uomini, appunto il rappresentante della DIA e l'uomo dei servizi militari, che hanno rapporti strettissimi con De Lorenzo. Comunque, quando ormai la data era vicinissima, vi fu un ritorno di colombe, perché evidentemente gli Stati Uniti valutarono che non era il caso di creare. L'Italia è sempre un paese abbastanza importante, anche perché ha il Vaticano dentro, e al centro del Mediterraneo. È vero che fecero il golpe in Grecia 3 anni dopo, ma valutarono che forse per, diciamo, accordi con le parti moderate della Democrazia Cristiana, che garantirono un centrosinistra moderato. Tanto è vero che, come dicevo prima, la partecipazione dei socialisti nasce nel 63 con grandi ambizioni. Nel 64, proprio in quella crisi, perché ci fu crisi di governo proprio nelle settimane in cui De Lorenzo stava preparando il golpe, la conclusione della crisi si ebbe con l'accettazione di un centrosinistra più moderato da parte di Nenni, che poi sull'Avanti fece un articolo esplicativo in cui disse: abbiamo corso il rischio di un governo fascistico agrario confindustriale nei cui confronti il tentativo di Tambroni sarebbe impallidito. Ecco che Nenni prende questa decisione che gli costerà una diminuzione di voti nel 68, 1 milione di socialisti voteranno più a sinistra. Però, e io fui contrario in quel momento insieme a quella corrente di socialisti che facevano capo a Riccardo Lombardi. Infatti Lombardi, che era stato ministro nel primo governo, non accettò di entrare nei successivi governi. Però a posteriori, con la saggezza della vecchiaia, forse Nenni ha fatto bene a cedere, anzi si è sacrificato a gestire tra il 64 e il 68 un centrosinistra moderato che abbandonò l'idea di fare la legge sul suolo, la legge simile, ecco, ai paesi anglosassoni, cioè. La nazionalizzazione dell'elettricità fu fatta in una maniera che le società elettriche ebbero un grande compenso, quindi in pratica non fu un'espropriazione, fu un acquisto. Altre leggi furono fermate dicendo no, lo faremo fra pochi mesi. Anche se poi dopo i frutti sono stati, queste riforme mancate sono state anche 64-65. Ecco, appunto, allora poi riescono. Ecco, così è andata, quindi un settore americano aveva dei contatti con De Lorenzo, però fu dagli stessi Stati Uniti che arrivò il fermo. D'altro canto pare che anche quell'altro tentativo di colpo di Stato, meno quello di Borghese, abbia avuto il no americano addirittura nella notte, quando questi avevano già occupato dei palazzi. La famosa telefonata che ricevete da Borghese? Sì. Si sa chi c'era dall'altra parte, si ipotizza chi c'era dall'altra parte della traccia? No, è difficile, perché può essere anche un italiano che però ha un rapporto tale che dice no. Hanno detto che ci hanno ripensato, ecco, questo è il succo. Allora, i vasti apparati di schedatura. Dunque, la schedatura più grossa la fece appunto De Lorenzo, che prese il servizio nel 56 e all'epoca il servizio aveva non più di 10.000 fascicoli, tutti più o meno legati a operazioni di controspionaggio del tutto legittime per un servizio segreto militare. Nel giro di quei pochi anni che separano, non il 56, addirittura lui fino al 59 non amplia questa attività, però tra il 59 e il 64, in quei 5 anni di preparazione del golpe, lui passa da 10.000 a 157.000 fascicoli, quindi 17 volte il dato iniziale. Però la moltiplicazione dei fascicoli non è in preparazione di un golpe, perché per il golpe ci vuole un elenco dei 1.000 italiani più pericolosi. E infatti c'è il famoso elenco del piano solo, che ancora non si scopre. Si sa che è composto da 730-740 persone che erano quelle da arrestare in quella notte, da neutralizzare, trasferire in Sardegna, proprio in quel campo dove c'era la Gladio, ma noi non lo sapevamo, noi abbiamo scoperto tutto dopo, tanto che De Lorenzo dice vanno pure a star bene, perché se voi andate a Capo Marraggio, no, c'è un mare scoglioso bellissimo, essendo base militare, per 50 anni non è entrato nessun pescatore, per cui adesso sopravvive la foca monaca, che è rarissima, e ci sono poi pesci a non finire. E se vedete le carte della Gladio, rimproverano quelli del Sisde perché si fanno il bagno di mezzanotte nudi, e c'è il rapporto che quelli del Sisde durante questi 15 giorni di addestramento, e c'era una donna nel gruppo del Sisde, e c'è questo rapporto al direttore, dice: io di guardia lì dico che alla tale ora, all'una di notte, quelli del Sisde sono usciti e hanno fatto il bagno nudi. E questa è una battuta. Ecco, allora, però, ecco la schedatura, poi il dopo della schedatura. Me ne chiedeva un'altra persona, il dopo è questo: vengono congelati. Nel 70 la commissione parlamentare e il governo votano la distruzione di 42.000 di questi 157.000, i più platealmente scorretti, sacerdoti, sindacalisti di alto livello. Insomma, la schedatura di Di Vittorio non era ammissibile, insomma, è così. Però tra il 70 e il 74 non si muove foglia, tranne che il capo Allavena, l'ultimo dei De Lorenziani, aderisce alla P2, allora piccola ma già esistente, e pare che abbia fatto una fotocopiatura di migliaia di fascicoli, li ha donati a Gelli, che li tiene in Uruguay, o qualcuno dice a Monte Carlo, oppure la parte più numerosa in Uruguay, quelli più delicati a Monte Carlo. Questa è la parte che, diciamo, è stata fotocopiata, non sottratta. Poi nel 74 Andreotti, che devo dire ogni tanto lui ha delle idee, perché anche nel 90 fu lui che smascherò Gladio, Andreotti prende l'iniziativa, prendono 9 tir, li riempiono di fascicoli, elicotteri, mitragliatrici, eccetera, li portano a Fiumicino, e per 4 giorni e 4 notti arde questo forno di altissimo livello, molto grande. Poi, se nel viaggio si è perso qualche fascicolo, questo non lo sapremo mai. Se nel 74 altri hanno fotocopiato, non lo sapremo mai. Però, ecco, i 42.000 fascicoli illegittimi sono stati distrutti nel 74. Poi, quando io come consulente, io e il collega, uno di destra e uno di sinistra, il presidente e il vicepresidente, andammo al servizio autorizzati, gli stessi uomini dei servizi fecero delle fotocopie per mostrarcele a noi, di fascicoli vecchi. Loro non fanno più cose di tipo sessuale, però ci chiesero loro, chiesero ai due parlamentari che erano con noi, datevi da fare per autorizzarci a bruciare queste cose che sono rimaste e galleggiano lì nel Mare Magnum, e loro ce li hanno presentati prima che noi magari lo scoprissimo chiedendoli. Ce l'hanno presentati loro facendoci anche la fotocopia. Poi non ci hanno dato né ovviamente l'originale, nemmeno le fotocopie, ma abbiamo potuto leggere di fascicoli sulle attività sessuali di molti politici del periodo anni 50, anni 60. E veramente insistevano: voi che siete parlamentari, fateceli distruggere, perché noi continuiamo a avere queste cose e ci vergogniamo poi quando succede, come voi che venite qui, e ce le hanno estratti pazientemente dai vari fascicoli, anche da fascicoli che noi non dovevamo vedere, che noi non è che potevamo avere l'accesso. Con la Mitrokhin abbiamo visto i sospetti agenti KGB, con la Stragi i sospetti collusi di destra. Oh, documento, documenti, la terza persona, era la tesi, ha ragione. Dunque, allora, tenga presente che non solo noi, i professori di storia contemporanea, nemmeno i professori ordinari, sono mai entrati al servizio. Sono stato molto interessante. Ma alla c'è una signora che ha scritto la storia dei servizi segreti su input, su richiesta dei servizi, e sono quei libri che poi gli stessi servizi donano a Capodanno o a Natale come strenna dal capo dello Stato ai capi di divisione, ai capi di Stato Maggiore, eccetera, che con qualche fatica si riesce ad avere per vie traverse. Sono due volumi molto esteticamente molto belli, perché è carta raffinatissima. Purtroppo non sono in vendita. Io ho detto loro: ma metteteli, tanto non contengono poi nulla di straordinario. Cioè, anche la signora, che pure è dell'ambiente, ha potuto vedere i documenti che il SISMI ha già portato allo Stato Maggiore dell'Esercito, cioè all'archivio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Ma per esempio, dal 1 settembre 49 non esiste nemmeno un indice di documenti, cioè tutto ciò che comincia con l'adesione dell'Italia alla NATO, nemmeno questa signora ha potuto vedere nemmeno l'indice dei documenti. E comunque anche lei ha visto i documenti dal 1861 al 30 agosto 49, ma solo quelli che stanno già all'archivio storico dello Stato Maggiore. Lì lei può fare domanda, tutti possiamo fare domanda. Certo, quando io feci la domanda nel 77, mi portarono in una stanza dove c'era un faldone. Cioè c'erano quelli pubblici, poi c'era scritto 33 bis e mi dissero: quello è quello riservato, lei è fortunato, è il primo che può vedere. Mi dettero il 33 bis, io in 4 giorni me lo lessi e finì lì. Adesso, per la verità, c'è tanta tanta roba, però ripeto, se la signora che ha fatto i due volumi scrive praticamente solo viene sostituito il capo, poi si apre il centro a Tobruk, poi l'Abissinia, c'è il centro in Etiopia, insomma, comunque è già molto, e non so se lei riesce in qualche modo a vederlo, è strabiliante sul piano anche estetico, perché sono riprodotte con fotografia a colori tutti quei documenti che ha scelto di mettere. A colori significa, anzitutto sono veline, no? Quelle che si usavano quando non esisteva la fotocopiatrice. Siamo nel 1800, si facevano i documenti in 5 copie con la carta carbone. Sono veline, quindi debolissime, ormai hanno 100 anni di età. Poi ci sono le pieghette e poi ci sono le firme del superiore, ma di medio livello, con un colore di inchiostro, di quello più alto con un altro colore, e il direttore che firma con l'inchiostro verde, che è riservato ai capi. Maria Gabriella Pasqualini. Pasqualini. Pasqualini. Sì, non ti posso vedere niente. Lei di persona è venuta qui? Te la posso vedere. Ve l'ho fatta vedere sì. A casa? Eh sì. Ah, ho capito. Anche a Bologna. Sì, perché poi, diciamo la verità, al SISMI se una biblioteca lo chiede, lo danno, tanto non c'è nulla, è bello da vedersi, ma di contenuti riservati c'è poco, insomma. è una strenna natalizia, un po' per spendere i soldi dello Stato e per darli un po' in giro. Ogni Natale fa, non solo loro, anche la Presidenza del Consiglio, tanti altri. Vabbè, li lasciamo liberi perché... Quello che chiedeva di Bologna. Anche perché sono 10 e mezzo, questo vuole essere vicino a noi. Quello del... Amico di Bologna, se vuole... Ci stancava un po' dalla logica... Se, non in questo, non c'è tempo, sono già le 12 e mezza, devono chiudere. Io come? Sono qui comunque. Se vuoi puoi fare la domanda dopo al professore, però dobbiamo chiudere. Grazie a tutti, ci vediamo martedì prossimo. Ciao. Poi, cioè, no.